bumper de bumper de bumper de bumper de bump. Bumper de bumper de bumper de bumper de bump. Bumper de bumper de bumper de bumper de bump. Sarò il tuo nombre. Sarò il tuo nome, la tua muchacha. Un bacio e poi ti porterò chiusa nel cuore. La mia